Bisogna pur difendersi. Accendi tutti i radar. Ci sono mille pecore che aspettano di essere contate. Ci sono mille facce che vorrebbero soltanto essere considerate. Pensieri brutti e calmi come il latte. Sia dolore, ambizia e gioia, tutto quanto passerà. Sia dolore, ambizia e gioia, tutto quanto passerà. Sia dolore, ambizia e gioia, tutto quanto passerà. Che si mette un fuoco, che si mette un fuoco. Questo spazio non tramonta, non esserci mai. Perché sei un serio, sei. Anche se questo è un film sulla tua vita. E tu non ci sei. Comunque, quel che puoi fare è metterti comodo e osservare. Se nella migliore delle ipotesi, se ci riesci, lasciarti andare per un momento. Che sia dolore, che sia gioia. Che sia dolore o che sia gioia, tutto quanto passerà. Che sia dolore o che sia gioia.